6 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 6 dicembre. Scrivo dopo aver divorate tutte le mie lacrime. Proprio così, perché ho finito in questo momento di mangiare una scodella di minestra piangendovi dentro per la rabbia di doverla mangiare. Ieri il babbo ha decretato che la mia punizione per l'affare del fantoccio di Virginia e per l'altra sciocchezza dei versi contro il professor Muscolo debba consistere nel darmi da mangiare per 6 giorni consecutivi sempre minestra, nient'altro che minestra. E questo si capisce, perché sanno che io le minestre non le posso soffrire. Se per combinazione la minestra mi piacesse, si può essere sicuri che mi avrebbero tenuto 6 giorni senza minestra. E poi dicono che sono dispettosi i ragazzi. Il fatto è che ho resistito tutto il giorno rifiutandomi di mangiare, deciso a morir di fame piuttosto che sottostare a una prepotenza così feroce. Ma purtroppo stasera non ne potevo più e ho dovuto piegarmi alla necessità, piangendo amaramente sul mio infelice destino e sulla minestra di capellini che ho terminata in questo momento. Fine del 6 dicembre.